Mira que sí. El seguís que ho veiem, no? Ah, aixeca el que tenen així, quan el sol es peca i marum, dia el maial. Nienta buen, dia porc. Una broca d'aigua et pompa i del pis, del gran pis. Again, n'hi ha bé el pis. Dio maiale. Stava per partire il moccolo in diretta, signore e signori. Vi siamo mancate? Sì, dite la verità, vi siamo mancate la settimana scorsa. Secondo me sì, per forza. In realtà era tutto un trucco, l'abbiamo fatto soltanto per lasciarvi col fiato in sospeso, perché avevamo un argomento e un tema da concludere. Ecco, concludere. Ecco. Parola d'ordine del giorno... Chattanooga, Tennessee. No, ho reso omaggio alle mie origini ferraresi. Quello che avete sentito come spot di apertura della trasmissione è un doppiaggio meraviglioso, burinissimo, di un vecchio spot della Lipton, del Lipton Ice Tea in bustina con Dan Peterson, che invece che dire fenomenale alla fine dice la bestemmia tipica con proprio l'intonazione della con la pronuncia della liquida, no? Proprio tipica ferrarese, questa L molto legata, tipica anche un po' del livornese, ma sono un po' diverse. Sì, un po' sì, però siamo rimaste lì, non è che ci siamo allontanate tanto dall'ultimo argomento. No. Perché è importante dirlo, la bestemmia richiede tempo. Sì. Anche se oggi, tra le varie tipologie, discuteremo anche di... Toscano. Oh. Del famoso... Moccolo! Il moccolo, perché facendo un riepiloghino veloce... Madonna, guarda come mi piace infognarmi nelle situazioni pericolose. Faccio il riepilogo della puntata precedente. Ecco. Insomma, noi abbiamo iniziato questa seconda stagione parlandovi soprattutto di... parolacce e bestemmie, è una cosa che secondo me meritava un approfondimento particolare. Sempre, sempre, sempre sia lodata. Esatto. Ci tengo. Che senso? La bestemmia. E, abbiamo detto che fino al 99 bestemmiare in pubblico era un delitto penale, ma solo se si bestemmiava Dio. Madonna e santi non contano. E vi abbiamo parlato della suddivisione semantica tra le bestemmie che riguardano Dio, quelle che riguardano la Madonna e quelle che riguardano i santi e la loro localizzazione in Italia, dal Dio e la Madonna che sono generalmente tra nord e centro, i santi invece vengono bestemmiati molto meno. E la bestemmia come atto linguistico, quindi, che deriva dagli usi del giuramento e che in realtà poi perde questa connotazione perché diventa appunto un'interiezione, un'esclamazione, di conseguenza però secondo due diversi studiosi sociologi perde questa classificazione, diciamo, come atto linguistico. Tutto qua. Che brava, ma sei preparatissima anche quest'oggi, hai visto? Mi sono non riposata. Ci delude mai la nostra Nina. Sì, anch'io mi sono riposata, non è vero. No. Però diciamo facciamo finta, dai, facciamo finta. È io così. Continuo a guardare i bellissimi capelli della Nenia. Quando prima o poi anch'io ci vedrete, il tuo rossetto, siamo baby. Complementari sull'elettrico, però sulle sonorità elettriche. Siamo elettrizzanti, nonostante tutto. Chissà se la nostra amica Wendy ci ascolta da casa. Povera la nostra amica Wendy, un po' infortunata, le facciamo un saluto dalla regia del Womba. Chissà se le stiamo facendo un po' di compagnia, dai, in quel po' di casina, tutta sola con poverina, la gambina. Quel tutorino. Oh, mannaggia. Questa puntata la dedichiamo a te e fai buon uso di quello che diremo. Alla nostra Miss Gibot. Sì. Ma non erano pancere. No, fa la Gibot fa tutto ciò che è elastico e comprimente. Forse anche le ciabatte, chissà. Madonna, ma ti immagini? I plantari di sicuro. I plantari costrittivi, sì. Per camminare male. Per farti delle schizzare gesce. La cipolla dallo stinco. Un saluto anche al dottor Gibot, che è sponsor di questa puntata. Sì, sì, sì, sì, sì, abbiamo tantissimi sponsor. Anche dei rinomati ristoranti, ma ve lo diremo dopo. Cin. Ecco qua, ci risiamo. Io oso dire, non ne abbiamo discusso, ma secondo me di ce lo possiamo Smaila? Dire in diretta. No, non voglio cambiare sigla, non ne posso più. Che ne dite? Sì, Votiamo, sì, dai, chiediamo abbiamo anche a Ginox. Vuoi che la Brusca cambi sigla? Sì, allora, sì, ha detto solo sì. Brutta. Lui ha detto sì perché in realtà è uno di quelli che le ragazze cin cin se le ricorda perfettamente. Sì. Sì. Vedi? Chiaro. Sì. Sono quelle di Colpo Grosso. Sì. Bravo. Grazie. Prego. È preparato anche il nostro cino. Va bene, arrivederci. Arrivederci. Che bella questa regia sempre popolata. Sì, sì, sì, è il bello di della sorpresa. Regia. E quindi, cara, siamo in diretta, diciamolo, sono le 19:40, sì. Siamo in perfetto orario, esatto. Io approfitterei così in anticipo per poi non soffrire di dimenticanze gravi, i nostri social Wombat, sì. Sito wombat.noblogs.org, twitter.com Radio Wombat Firenze, facebook.com radio-wombat-firenze, mail posta wombat@insiberia.net. Questo in Siberia lo potete prendere anche come un'esclamazione. In Siberia! Esatto, e soprattutto in questi giorni, perché siamo in diretta, possiamo testimoniare che fa freddo. Sì. Questa non è una puntata registrata. Bellissimo, perché stamattina ascoltavo una trasmissione su Radio 3. Una bellissima trasmissione. Non facciamo pubblicità, ma è la più bella trasmissione di musica classica che Radio 3 metta in piedi durante che la mattinata. Stronzi, loro due li sono adoro. Fantastici. E anche loro dicevano, ah sì, sono le 13:02, per testimoniare che siamo in diretta. E poi quell'altro interviene dicendo, sì, anche se Fassino e Prodi si sono incontrati, la notizia del giorno. E l'altro fa, ma questa potrebbe sembrare una notizia di 30 anni fa, quindi non c'entra niente. Non riesce a testimoniare il fatto che siamo in diretta. Sono stati esilaranti e quindi mitici. Purtroppo boh. Noi ci manca forse quella verve che hanno due. Però posso parlare l'esperienza, un po' così. L'esperienza, sì. L'esperienza. Bellino. Un saluto fantastici. Agli amici del programma di lirica più bello della radio. Stronzi. E a questo punto salutiamo anche tutte le trasmissioni, in primis quella della fuga del gatto. Sì. la nostra cara amica Bloody Bloody, Bloody che fa questa trasmissione che vi tiene compagnia la domenica pomeriggio alle 16. Alle 16, sì, sono, io la riascolto in podcast generalmente. Io a volte sì. Nella fase post-pranidale invece, ecco, mi metto sul divanino e l'ascolto. E abbiamo un palinsesto aggiornato, questo sembra veramente tutto Wombat minuto per minuto. Sì. Abbiamo il palinsesto aggiornato sul sito, ci sono nuove trasmissioni che sono partite, sembra la domenica pomeriggio più altre. Scusa, domenica alle 18, la fuga del gatto, domenica alle 16 c'è la nuova trasmissione OI. Oi, oi. Come la leggiamo? 1-3 o 13? 13 come la vuoi? 12. 13? Sì, sì, anche loro la leggono così. Ma sì. Ce n'è tante ormai, siamo cresciuti tanto in quest'anno. Il venerdì è meraviglioso, vi farei vedere dalle sì. 8 di mattina, vi teniamo compagnia quasi ininterrottamente fino alle 11 di sera. Quindi mezzanotte barra luna, perché Slick Chick dura anche due esatto, ore talvolta. Esatto. Che bravi quelli di Radio Wombat. Evviva, evviva Radio Wombat, ascoltateci, bene. Scriveteci, vi vogliamo un sacco di bene. Sì, sì, a questo punto sottolineerei che martedì ci dovrebbe essere la prossima puntata della nuova trasmissione Coming Song che va in onda ogni due settimane. E per il resto, Coccoli al 16 è ritornata in diretta il venerdì alle 16. Gli altri ci sono sempre, non sono mai stati via, non sono mai andati in a riposo. A parte noi la settimana scorsa bene, e questa sera sta. 8 Hertz che salta. Guarda. Perché il nostro Nautodate non si sente tanto bene. No, e allora gli concediamo, la settimana prossima gli concediamo un po' di riposo. Tra l'altro lui lì giù al dovere non ha mai saltato. È vero, nemmeno il giorno di Natale probabilmente. Grande, allora sì, meritato il riposo. Bene, baci a tutti. Da tutti quanti. Ciao, ci vediamo la settimana prossima. No, sto scherzando. Però a questo punto posso far sentire Super Dio Cane Ladro sì, Felice e Merdoso. Perché poi partiamo per poi con partire seriamente. La roba seria. Sì, dai. Bellissimo, bellissimo. Solo che a dirti può sembrarmi religioso. Se lo dici forte è un successo strepitoso. Super Dio Cane Ladro Felice e Merdoso. Ciao. Eccolo, non sappiamo chi sia questo soggetto, questo signore. Suppongo sia toscano o umbro al massimo, da chissà. Come parla. E, lo trovate sicuramente su YouTube. È un fornaio. Che bello. Che mestiere poteva fare per dire questa cosa? Il fornaio, il benzinaio. No, riascoltiamolo, vi prego, perché è bellissimo. Lo vuoi riascoltare, sì, un davvero? Pochino, un pochino. Sì, sì, sì, allora ve la faccio. Insegnatele ai vostri bambini. Vai, vado. Ricordo che a 10 anni non sapevo bestemmiare. Mi padre mi diceva non ne devi mai tirare. Ma poi verso 18 volli tutti intorno a me e dissi la bestemmia più simpatica che c'è. Super Dio Cane Ladro sudicio e merdoso, moccolo che a dirsi può sembrarmi religioso, se lo dici forte avrà un successo strepitoso. Super Dio Cane Ladro sudicio e merdoso, se te non sai che dire non ti devi non incazzare, ti basta una bestemmia e per un'ora puoi durare, attento a dirla bene non ti devi mai sbagliare. Perché se tu la zecchi contro Cristo si può andare, Super Dio Cane Ladro sudicio e merdoso, so che a dirti può sembrarmi religioso, se lo dici forte è un successo strepitoso, Super Dio Cane Ladro sudicio e merdoso. Ciao! Ha detto Moccolo, è toscano ovviamente. Genio. Genio. E in realtà è in una cucina di un ristorante. È bellissima, io la voglio come suoneria, anzi come sveglia per la mattina. Dai. Che idea. Che burlone. Siamo proprio delle burlone. Sì. Bene, insomma, adesso passiamo alla parte seria sarebbe... della trasmissione, non possiamo mica cazzeggiare tutto il giorno, porco di... Ups! Ecco, tutta la santa sera. tutta la santa sede. Via, via, via, andiamo avanti. Abbiamo perso un quarto d'ora così. Niente, avanti. Allora, forza. In definitiva, vi dicevamo la settimana scorsa che dobbiamo riconoscere alla fine che non si può fare affidamento sul carattere intenzionale della bestemmia. Siamo sicuri, quello che abbiamo appena visto era super intenzionale. Io questo lo sottoporrei come studio a Searle e Ameca, che erano quei due sociologi americani degli anni 70 che hanno teorizzato la bestemmia come atto linguistico. Io gli manderei il video di questo signore. Beh, ma perché poi c'è tutta la burla dietro, sì, però l'abitudine, però comunque dai, sì. E in realtà non si vede quale spazio potrebbero occupare nella tassonomia proposta da questo Searle le bestemmie, nel senso non riescono a essere collocate come atto linguistico. E altri autori, poi sono entrati, giusto per chiudere il discorso sulla sociologia della bestemmia, altri autori sono entrati nel dibattito che appunto non è concluso, ma anzi rimane aperto, con la tesi di Ameca, che definisce una distinzione tra le formule e le interjections. Quindi le formule costituiscono un atto linguistico e le interjection invece no, interiezioni spontanee. Le formule invece no, sono reiterate generalmente nel linguaggio e costituiscono un qualche cosa di intenzionale. Ma poi possiamo partire con una bellissima cosa che ci introdurrà alla tematica dei moccoli. Che io e la Nenia, che non siamo toscane, ma siamo fiorentine d'adozione, abbiamo appunto potuto imparare grazie a un grandissimo artista di Champs-sur-les-Bisons, di Campi Bisenzio, che vi facciamo sentire tra poco. Di lui abbiamo soprattutto la compilation. Abbiamo scaricato una piccola compilation, una perla, per citare con stima e orgoglio il personaggio, senza però esagerare, perché sì, la parola d'ordine del giorno è sobrietà. Esatto, come sempre, dalla sigla fino agli appuntamenti in agenda finali. Sì. Però io vorrei raccontare una piccola storiella, prima di partire poi con quello che è veramente tutta la parte di moccolame toscano-fiorentino. Le bestemmie derivano, pensate un po', dal Levitico, quindi il libro della Bibbia. Dice che chi bestemmia il nome del Signore dovrà essere messo a morte, tutta la comunità lo dovrà lapidare. Straniero nativo della terra, se ha bestemmiato il nome, sarà messo a morte. Ma Gesù stesso viene accusato dai giudei di aver bestemmiato il nome del Signore perché gli dicono: tu che sei un uomo ti fai Dio. Per cui siamo proprio nella, diciamo, origine prima della bestemmia, che è quella del non nominare il nome di Dio a vano. Ecco. I processi però contro bestemmiatori incalliti non riguardavano ovviamente solo Cristo, ma sono stati addirittura classificati sotto il nome di De Blasfemia nell'anno 1556 a Verona, nel tribunale del Maleficio di Verona, ragazzi. Qui per tutta la scena, come dire, un po' heavy fiorentina, stiamo dicendo delle cose che tireranno fuori gruppi musicali da qua al 2030. E testimoniano bestemmie come il sangue della Vergine Maria, puttana di Dio, potta di Dio, potta di Cristo. E questo ci conferma che le bestemmie, se non hanno un'origine veneta, sicuramente grazie agli atti del processo di De Blasfemia sono, come dire, fortemente insite nella loro cultura e sicuramente sono partite da qui, o se non sono proprio partite, diciamo che è stato un punto di diffusione molto importante. E poi vabbè, l'evoluzione linguistica ha selezionato varie esclamazioni che comprendono, come sappiamo già, i nomi dei santi, le parole ingiuriose, e quindi perdiamo così la formula originaria del giuramento. E c'è una formula molto carina che è il Dio Can. Possiamo usare anche il Dio Maiale Ferrarese. È una formulazione, però, il Dio Can, ellittica e breve, di cui il parlante può scordare effettivamente il senso. ok, in caso questa sia un'interiezione, ma in un caso di maledizione, quello che potrebbe essere generalmente una bestemmia, e soprattutto come veniva citata, diciamo, all'interno di questi processi de blasfemia del Tribunale del Maleficio di Verona, le bestemmie erano sempre classificate come maledizioni. Oggi abbiamo perso questa cosa, a parte mia nonna, che ha conservato. Lei diceva una le cosa, sacre usanze. Lei dice una cosa terribile. Adesso penso di no, perché diceva canker dundini casche in l'inferen. Cancro di Dio cascato nell'inferno. Wow. Dove il cancro non è appartenente a Dio, ma è Dio il cancro della società. Bellissimo. Una cosa. Ridillo, ti prego. Cancro dundini casche in l'inferen. L'inferan. Stupenda. Perché è bolognese. Poetica. Ecco. Secondo me è inventata da lei. Speriamo. Figo. Fisto l'abbia Dio e Santa Maria e chi vuol bene a loro, diceva qualcuno. E queste, Fistola, eccetera, eccetera, eccetera, puttana busona, beata Virgine, puttana Virgin Maria, sono tutte, mannaggia la Madonna e mannaggia Dio, sono tutte bestemmie che riguardano la Madre Celeste. Di queste che ho citato, offese poi, cioè, capito. Tutte queste si sono quasi trasferite in Toscana. Ne troviamo diverse, ma se in Veneto la bestemmia è generalmente denominata bestemmia basta, in Toscana viene chiamata moccolo. È proprio qualche cosa di tipico. Moccoloso. Ma che facciamo? Vogliamo introdurre il moccolo oppure facciamo sentire... Ma no, no, no, no, l'introduzione è questa che state per ascoltare. Sentite. Si fa tipo top of the pop, vedi? Lui si sta dietro. Va bene? Sì. Vai. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti. Ma alberi, alberi, alberi, infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. E vedi cielo sopra noi, che restiamo qui abbandonati come se non ci fosse più niente al mondo. Suona un'armonica? Mi sembra un organo! Che vibra per te, per me, suona sì. Un'altra? Un'altra, un'altra. Un'altra? Sarà stanza. Un'altra? Vai. Una casa, e ce l'ho, di Mogol Battisti. Una casa, e ce l'ho. Il lavoro, e ce l'ho. La mattina c'ho chi mi prepara il caffè. La sera c'ho chi non può dirmi di no. Cosa voglio di più? Un'altra! Un'altra? Un'altra, dai. Oh, lui ce le sa finite. Facciamo una cosa, aspetta, aspetta. Noi si va avanti, anche se rotto gli occhi, vuol dire si fa festa. Va bene? Sì. Vai. Sì. Oh, glielo veloce, eh. Di Mogol Petti Bravo. Un'altra. Pensiero stupendo. Le mani. Le tue. Le sue. Le mie. Quell'altre nel mezzo. In dove metto? Come fa? Un'altra. Un'altra. Sarà zazzà. No, sarà zazzà. Dai, sarà zazzà. L'ultimo, eh? Una modella di Mogol Grignani. Ti raserò l'aiola quando ritorni da scuola. Lascia le tue amiche sceme, lo sai, ti voglio bene. però guarda, c'ho questo difetto, ma per piacere andiamo a letto. Guarda, sono un grosso guaio, mi va bene anche dietro il pagliaio. Guarda, e mi scoppia una palla, mi va bene anche nella stalla. Guarda, poi te lo dia il volo, in seguito mi calberebbe anche il bocciolo. No, non va, no, non va. Bravo! Ci stava. Sì. Ci stava, perché lui, come faceva a non metterlo. Però ho scelto un pezzo contenuto. Senza bestemmie, ma con... Sì, contenuto, a modino, giusto che... per... Era troppo divertente. Poi la versione di sua è molto meglio di quella di Mogol Grignani. Vabbè, questo ha sostituito un po' il pezzo musicale che doveva darvi un po' di verve, quindi ritorniamo. Sì, questa sera è vero, non stiamo facendo sentire pezzi perché siamo perché molto c'erano concentrate. Queste perle, visto, queste cosine un po' divertenti, allora ho pensato, ma sì, facciamole passare al posto della musica. Anche perché abbiamo una mezza puntata da recuperare la settimana scorsa. E quindi dobbiamo, insomma, dare un po' un avvantaggiarci. Allora, parliamo un po' della Toscana. Non parleremo forse del centro Italia, del sud, perché come sappiamo al sud si bestemmia poco. In Sardegna non si bestemmia minimamente. Zero. E quello che viene detto in Umbria e nelle Marche è del tutto simile a quanto viene detto in Toscana. Ovviamente non si chiamano moccoli da loro, ma... sono comunque come formulazione, come intento di pronuncia, sono sempre bestemmie molto simili tra loro. Toscana, paese particolare, secondo solo al Veneto per la quantità e la fantasia nelle combinazioni bestemmie e accostamenti tra entità sacre e vari epiteti, animali, deiezioni e quant'altro. Il moccolo è un termine tipico che deriva dal latino mucus, il muco, che ha un'accezione poi nel sostantivo moccolo, perché rievoca l'immagine di una goccia che scende colando. E per similitudine si associa, per esempio, il mozzicone di una candela, che colando, che sciogliendosi, cola e forma questo moccolo. La tradizione popolare vuole che in occasione di una grazia, quindi siamo sempre ovviamente tra il sacro e il profano, in occasione di una grazia richiesta e ricevuta, si accenda una candela al santo protettore di turno e si omaggia quindi questo santo con un moccolo di candela, non un moccolo tipo porco Dio. Da lì il traslato linguistico, che è abbastanza semplice da capire. Se moccolare significa rivolgere un pensiero, un omaggio a santi o alle entità soprannaturali, sulla modalità scelta per fare questa cosa, in base a quanto la grazia sia stata esaudita o meno, è un po' a discrezione personale, no? Non c'entra il libero arbitrio in questo. Cioè, se io voglio ringraziare Sant'Eusebio, protettore dell'anima mia, o se invece voglio moccolare contro di lui. Questa è in sintesi l'etimo del termine moccolare, che usiamo solamente qui in Toscana. A onor dei fatti, però, tra queste accezioni che abbiamo illustrato, c'è soprattutto a Firenze un sinonimo che viene utilizzato, che è smoccolare. Io l'ho sempre sentito poco. Smoccolare, sì, io l'ho sentito. Smoccolare. E è ovviamente un sinonimo, cioè viene utilizzato in maniera completamente simile al moccolare. E semplicemente l'aggiunta della S davanti è uno sfizio che i fiorentini generalmente, usano. Tra l'altro i fiorentini dicono una cosa che a me fa molto ridere, che è sgranare. Sgranare. E si va a sgranare. A mangiare, a spruzzicare. Sì. Io e la nenia ci stiamo guardando e facendo un gesto molto molto molto preciso che quando ci verrete a trovare in una qualsiasi occasione sabato. Vi faremo. Perché no? Perché sabato alla serata del Next Emerson ci sarà il banchino della radio Wombatissima. Ecco, è vero, perché ci sarà la Wombatigna. La Wombatigna o qualcosa di simile, vediamo perché, perché è un po' freddo, allora la Wombatigna un po' mi il fa Bloody fatica. Wombat. Un Bloody Wombat, non so, vediamo, vediamo, c'è ecco. Tempo per tutte le sorpresine, non sveliamo nulla. No, no, anche perché tra anche un pochino perché non l'abbiamo ancora deciso. Ecco, facciamo tra un pochino comunque il riepilogo del fine settimana delle attività. No, no, c'è da dire solo questo, così tutti verranno a trovarci. Oh. Dai, dai, ci sono anche delle bellissime top. Sì, dai. Venite a rifarvi il look invernale. Portate, portate un pantalone che volete stoppare o una borsa con un buco che volete coprire perché magari boh, vi è caduta la sigaretta sopra o un giubbotto con una macchia di caffè. Bene, portatelo e vi cuciremo una bella toppa di Radio Wombat, carino. Un po' giubbino. Sì, sì, sì, sì, sì, ci sarà proprio macchina da cucire, robe super serie. È una serata wombatissima. DIY. Ecco. Wombat. Sì, però in realtà poi ci sono altre cose, stavo scherzando, ma lo diciamo dopo. No, in realtà perché è una doppia serata Wombat quella, perché ci sarà il Next Emerson in banchino con le toppine, ma c'è anche a Mondeggi. Esatto. A due giorni, durante la quale sarà presente Radio Wombat in tutto e per tutto, fare il diciamo di tutto. Diciamo che le regie, la regia si è un po' splittata e chi va un po' qua, chi va un po' là, ma saremo tutti presenti per raccogliervi e cucirvi addosso le nostre toppettine. Che bravi. Va bene, andiamo avanti. Scusa se ti ho interrotto. No, hai fatto benissimo perla. Perché in realtà l'argomento potrebbe esaurirsi qui. Sì, anche perché in realtà avremmo dovuto avere degli ospiti fiorentini in grado di moccolare per tanto tempo di fila, ma la puntata purtroppo doveva andare in onda la settimana scorsa, più slittata, poi una cosa e un'altra, un po' siamo cazzone, un po' è andata così, Natale. E quindi boh, potremmo farvi ascoltare una cosa. Sì, e poi dopo ovviamente c'è un ringraziamento che dobbiamo fare molto molto obbligato a una persona che da cui anzi abbiamo preso buona parte delle nostre scalette delle ultime due puntate. Oh. Allora parliamo, vediamo se si finisce qualcosa. Ai, ai. Sì. In effetti devo dire che noi toscani si bestemmia parecchio. Infatti il fatto che in Toscana la bestemmia lascia una valenza leggermente diversa da quella degli altri posti. Poi ci sta un rapporto più paritario con la divinità, capito? Cioè non c'è un rapporto sottomesso. Poi il Dio si dietica, si discute, si chiacchiera e ci si offende anche. E allora, io siamo più fantasiosi, capito? Poi bestemmia a tutti. Cioè, però cioè, magari hanno delle bestemmie più sempre solite, no? Invece noi, di sera in fioretta, di là di là. Io comunque, io bestemmio quando mi capita qualche cosa, specialmente sul lavoro, bestemmio come un turco. Però io sono convinto, io scommetto con paradiso, io ci scommetti che vuoi volere. Io muoio, con lì mi metto in fila, poi mi libretto, metto lì, arrivo lì e mi fanno, cioè, ma lei qui, caro signor Chiari, la bestemmiava parecchio. Sì, Dio, ma la guardi, la legga bene. Allora lui legge, io me lo immagino, ma la figura che sta facendo. E legge e dice, ah, ma lei è toscano. Certo, ah, allora dice toscano. Poi, anarchico anche, allora l'ha fatto bene a bestemmiare. E guarda, io con paradiso, ma ci scommetto che è Google. Che poi diciamo, io in toscano tutti bestemmi a tutti, preti, frati. Anzi, più che vanno in chiesa più che bestemmiano. Sicché voglio dire, non vedo perché non debba bestemmiare. Ora, non per divertimento, però quando succede qualche cosa il moccolo parte, giù là. Che poi li parte a tutti, anche se vogliamo dire di no. Vogliamo fare discorsi, vogliamo fare formini, ma quando gli capita la disgrazia. Ah! questa è bellina, ve la racconto perché è favolosa. Avevo fatto amicizia con un liutaio, patano, uno di quelli, lui era tutto di quelli casa e chiesa, sempre sposato, siccome io e filetto a cassa chiusa, e volevo imparare un po' a filettare a cassa aperta, vedere un po', anche per l'accordatura di piano, di fondo, perché quando si filetta a cassa chiusa non è che si possa fare il discorso lì. Allora mi disse: mamma, guarda che anima, non ti preoccupare, vieni da me e ti insegno io. Un giorno, che fissai, un giorno gli portai un bel pezzo di legno di mio, di quello di garba, l'acero campestre, che ci si mise lì, mi fece, io avevo portato un fondo, avevo già cominciato, mi fece vedere come si fa, e io mi misi da una parte, e lui intanto nel frattempo più avanti gli stava facendo un restauro su un bel violino di metà dell'Ottocento, bello, è un roba di abbastanza di valore, io non mi ricordo il nome, ma quella fu veramente da fotoromanzo, cioè io era lì, aveva fatto tutta un'intelaiatura perché stava rincollando il piano, e aveva fatto tutta un'intelaiatura con tutte stecche di plexiglass e tutte molle delle da poltrona tagliate, no, a gancio, ma un lavoro, gli era tornato l'incollatura, non si vedeva nemmeno dove c'era il passaggio da un legno a un altro. Lavoro spettacolare. Schiavetri ero lì, stavo finendo, lui aveva finito di fare questo lavoro, mi disse: guarda, aspetta che Ari, dice, intanto gli aveva tutti i crocifissi sul grosso Padre Pio, la Madonna. Certo, gli dice: via, ora finisco qui, guarda, metto l'ultima molla, poi si va a pigliare un caffè. Ti mette l'ultima molla, gli scappa la molla e gli si pianta il piano di violino, il punk, schiaccia a fare. Madonnina santissima, se io mi avvicino per vedere sempre a debita distanza, vero? Cioè, Madonnina, e cerca di levarlo, ora d'altra parte, cioè, non era nulla di grave perché gli era nel punto in dove c'è la tastiera sopra, però insomma era sempre una fitta, mentre va a pellare la molla, mentre faceva Madonnina, che ne parte a 3-2, una la disciplina in mezzo e una la riporta e via di netto una paletta dell'F. Cominciò a bestemmiare: Madonna di Dio di là, diavolo di là, Cristo di sopra, santi, presi il calendario dal 1° di gennaio fino al 31 dicembre, fece tutta una strage di santi, poi gli andò il presepe, e il bue, l'asinello, la mangiatoia, e preti, frati, e così, le pecori, anche le pecorine, poi passò all'ultima cena, la tovaglia, l'ultima cena, gli apostoli, io zitto da una parte come un brucio, non apri bocca. Allora a un certo punto passò la sburiana in quella maniera, cioè gli aveva fatto un bel danno, eccetera, e si ripara tutto, no? Però insomma, gli aveva quasi finito il lavoro. Allora niente, io gli feci vedere il mio lavoro, mi disse: sì, va bene, abbi pazienza per questo contrattempo. Insomma, il lavoro gli andava bene, e allora io venni via, lo rincontrai dopo un annetto a giro per Cremona, e gli era con la moglie. Che si ferma, si parla, si fa due chiacchiere, tipo: ma ti ricordi che bestemmie tutti i rasti? Di no, bellino, perché io no, chiaro, no, io non ho mai bestemmiato in vita mia, e tu bestemmiava, vai, ma non può, ma no, ma avrò detto Madonnina Santissima, io sì, alla prima molla sì, ma alla terza molla la Madonnina non era più Santissima, e insomma, io penso che se gli stessero a guardare più il che fa la gente piuttosto che il che la dice, e si andrebbe di molto meglio, si andrebbe tutti di molto meglio. Comunque il Toscano si bestemmia, io quando mi ricordo, quando misi la testa, che avevo finito una testa da allora, l'appoggio qui, e lì il cane, io andavo via, e la figlia la sera torna a casa, più il cancello, vedo roba in terra, l'era la testa tutta masticata dai cani. Dice: non bestemmiare, vorrei dire voi a non bestemmiare. Anche lì bestemmiare. Guardate che fa la gente piuttosto che la liscia, che è quello di importante. Guardare quello che fanno, che con la bocca sono buoni tutti. Oh vai. Che poi alla fine abbiamo fatto tutta una puntata su cose che probabilmente a Firenze tutti conoscono a memoria. Però, a noi piacevano, perché questo comunque siamo, no? Forestiere, e quindi abbiamo voluto farvele sentire. Sì. Non ce ne frega niente della vostra opinione. E non ce ne frega niente di fondamentalmente di Firenze, di tutti i suoi bimbi belloci che protegge a giro per la città soltanto perché sono fiorentini. Noi non siamo fiorentini, lo siamo d'adozione, ci piace così e di conseguenza supportate. È divertente. Un giorno di questi vi telefoneremo a casa in diretta chiedendovi di dire la Coca-Cola con la cannuccia corta. Oh mamma, corta. Mi darei un cazzotto da sola. Prima di farlo. Alla prima richiesta, boh. Vabbè. Io avevo un amico che lo chiedeva insistentemente. Che tristezza. Come quando dico da dove sono, sarda. Aio, aio, eia. Marzo, eia. Non lo posso dire. Ok. Va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti. Come stai? Andiamo avanti. Niente. Dove vuoi andare? Dove vuoi andare? Ne abbiamo fatto sentire il liutaio, che poi in realtà il liutaio è molto famoso. Cioè, famoso, vabbè, insomma, tutti lo conoscono. Ah, sì, dai, il liutaio, quello di Firenze. Io, per esempio, che non lo conosco. Sì, lo seguono, cioè, lo seguono, cazzata, ascoltano, è molto visto su YouTube, minchia. E vabbè, così, a noi invece faceva un po' ridere, perché siamo forestiere. Esatto. Va bene. E forestiero... Realtà... Scusate, i malanni della stagione. È forestiero anche è tale Isacco Turina, che è uno studioso, uno studente che nel 99 ha portato alla facoltà di sociologia di Bologna una tesi dal titolo Maledire Dio, che trovate interamente scaricabile aperta su Google. Googleate Maledire Dio tesi, sì, sulla sì bestemmia. Sì, è la primissima PDF scaricabile. Meraviglioso. In realtà non ha una conclusione, lo dice anche lui, nel certo, senso, cosa vuoi concludere? Non c'è una motivazione particolare, sì, sul perché si bestemmia, sul perché la bestemmia è stata reiterata. È il senso della vita. Più o meno la dice anche lui questa cosa. Sì, appunto. Fondamentalmente tutta. Sì, dice questa cosa, è stato bellissimo. Questa è stata la vera scoperta. Non gli volevo proprio fare pubblicità, però se lo merita, è una bella tesi. E se clap, mai clap. Ci sta ascoltando, se qualche amico di Isacco sta ascoltando questa trasmissione, ditegli che lo aspettiamo qui per parlare di questo documento bellissimo. Poi dobbiamo anche fare un salto a Forlì, ti ricordo, cara mia. Ma al nostro amico che ci sta ascoltando, speriamo. Noi, e che soprattutto speriamo che non si sia stancato, perché gli dobbiamo rispondere da maggio questa mail. Sì, perché non siamo mai pronte per una puntata così impegnativa e seria. Abbiamo un po' paura, un po' timore. Per l'abbiamo cui, già se anche messa tu, in conto, ma... sì, se anche tu ci stai ascoltando, riscrivici. Batti un colpo intanto in lista, così per farci due saluti. Esatto. Così poi magari abbiamo più coraggio. Possibilmente qualche bestemmia tipica romagnola. Oh, brava. Che sì. Anche lì ce ne sono tante. Figo. Tante. Che basta. Dire, basta. Allora, a parte tutti gli scherzetti, altro? Andiamo a vedere nella nostra scarceranda 2017. Altro? siamo, guarda, dovrebbero darci la chiave della città. Pensavo invece della chiave del reparto di San Salvi. quella l'hanno buttata via quando siamo entrate la prima volta. No, abbiamo, che bello... Questo è il programmone. Ma tu lo sai che oggi è il primo vero compleanno di Radio Wombat? Oh, 16? Il 16 novembre di un anno fa è il primo giorno di trasmissioni wombattiane. Con? Se non erro, o Slick Chick o la Fu... No, Slick Chick. Per cui, ragazzi, sì. Radio Wombat oggi ufficialmente compie 365 giorni, un anno di vita, cammina sulle sue zampine. Capito. Cosa si fa in un anno? Facciamo un resoconto della storia del Wombat. Prima i primi giorni, i primissimi periodi, le trasmissioni erano quattro. Noi 8 Hertz, Slick Chick, Fuoco alle polveri. Fuoco alle polveri, Fuga del gatto e Mila siepi. Brava, è vero, perché poverini, li abbiamo dimenticati nel nostro dimenticatoio dimenticoso, ma in realtà c'erano anche loro. Che hanno poi cambiato, preso, hanno fatto altre cose. Le loro strade separate e diverse. Questa sera mi riascolterò il podcast della prima puntata dove c'era lo spot del congiuntivo sbagliato. Che bello! Sì, e... che è riandata in onda anche quest'estate. Esatto, perché ve le abbiamo fatte risentire tutte praticamente. Quindi. Eh sì, è vero. E siamo emozionate, il livello della trasmissione è nettamente peggiorato rispetto alla prima puntata. Ma. Perché? Però non abbiamo mai mollato. No. Abbiamo avuto dei momenti critici per motivi lavorativi, uno di questi periodi è proprio questo che stiamo vivendo. Ma non abbiamo mai mollato comunque. Esatto. Anche e tra l'altro mi hanno detto che 2 settimane fa, l'ultima puntata che abbiamo fatto, tra noi e 8 Hertz, c'è stato il picco degli ascolti. Attenzione. Quando non parlavo io ovviamente, ma c'è stato. Quando ecco. Non parlava nessuna delle due, secondo me, tutto grazie a... qualche cazzata che abbiamo preso da YouTube. Umberto Smaila e le ragazze cincine. Umbertone, quello. Preparati che a Capodanno... Chiamiamo. Tra l'altro io farei anche un concorso. Fate delle proposte per la nostra nuova sigla. Sì, perché ovviamente concludendosi probabilmente la settimana prossima tutto il discorso su bestemmie e parolacce lo concluderemo probabilmente, se ci riusciamo, in una maniera linguisticamente degna e molto, come dire, documentata. Parleremo di un problema particolare messicano, ecco, problema sociale e di conseguenza linguistico. Lo sai, vero che ti farò sentire tantissima musica Tamar. Oddio, e tanti spot agghiaccianti. Io ne ho uno bellissimo. Per la cumbia devo chiamare il mio amico Paciuco. Okay. Paciuco, dove sta? La cumbia non è messicana. No, in realtà no. Però ci stava un po' nell'atmosfera. Io ho visto l'altro giorno tutto il Sud America è Sud America. E più o meno, come dire. Sì, vabbè. Napoli, Italia e spagnoli e italiani sono uguali. Chiaro, certo. Bene. Ok, basta. A questo punto ci lasciamo così, anche con un po' di anticipo, che brave. Ve lo dobbiamo dire dove andiamo noi. No, è una sorpresa, perché poi altrimenti i nostri fan ci seguono e vengono con noi a darci un po' di noia. No, vi diciamo no. Solo che andiamo a prendere l'aperitivo. Ciao, è chiaro. Dove potevamo andare? Dopo una lunga giornata. Due persone così conciate, dove potevano andare? Lo posso dire? No, assolutamente. No. Siamo vestite un po' carnevalesche andanti. Posso dire che ho il rossetto blu? Non puoi dirlo. Ciao. Ciao, a giovedì prossimo. Ci sentiamo giovedì prossimo. Con contegno, mi raccomando. Sì. Buona. The haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now. In my life, why do I give valuable time to people who don't care if I care if I ever had love.